Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. L'evasione impossibile di Sant' Notar Nicola, parte quindicesima. Ormai conoscevo i meccanismi di un processo dove tutto sembra teso alla ricerca della verità e invece la verità non si sfiora nemmeno. In certi momenti, se ci si riesce ad astrarre, può essere persino divertente misurare la lontananza che separa quel grottesco minuetto che è il processo dalla realtà dei fatti. Non si cerca di capire le persone, le situazioni, i fatti, solo di fare rientrare gli imputati in un determinato cliché precostituito. Il ruolo degli imputati è quello di essere colpevoli. Il pubblico ministero arrivò ad accusarci di avere sparato con un'arma in dotazione della polizia e che noi non avevamo mai avuto. Ma poi, perché stupirsi? In una società borghese le ingiustizie i proletari le subiscono. Dalla culla alla tomba, e quindi anche gli errori noi li paghiamo tanto cari proprio perché sono generati dai loro crimini, che invece per ora rimangono sempre impuniti. Come si fa a sperare giustizia dalla magistratura, che è uno strumento docile nelle mani della classe che ci opprime da sempre, da quando siamo nati? Se qualche volta si fa giustizia è perché la macchina si inceppa, perché qualche elemento perturbatore si è inserito nel meccanismo, per sbaglio insomma. Bisognava quindi non dare tanta importanza al processo, anche se era in gioco la nostra vita, ma era ormai più in gioco, e cercare invece di usare il momento di notorietà e di contatto con l'esterno per parlare del sistema penitenziario, prima di ripiombare, questa volta per sempre, nel fondo di un carcere. E così, quando venne il mio turno, presi la parola e denunciai il lager di Volterra. Prima di entrare in aula ero in paranoia, i carabinieri mi chiamarono e io cercavo di nascondere il mio turbamento, ma entrai deciso, avevo improvvisamente riacquistato la calma di un tempo, mi dissi che parlavo per i proletari e attaccai. Iniziai a spiegare il concetto della parola rieducazione, spiegai attraverso brani di lettere di altri detenuti come avviene la rieducazione a Volterra. Costrinsi Perseo a smentire un'intervista fatta alla Domenica del Corriere sulla pena di morte. Senti, il presidente gli disse, bisogna andarci cauti con certe interviste. Lessi e spiegai tutta la storia del linciaggio di massa avvenuto a Volterra. Non si sentiva volare una mosca. Le donne della giuria popolare nascondevano il viso e infine, dulcis in fundo, a nome di migliaia di proletari urlai loro. Vergogna! Nessuno fiatò. Precedentemente avevo risposto io per gli avvocati compagni che erano stati attaccati dal procuratore generale. Voglio ricordare, aveva detto, che anche in certi paesi per i quali loro hanno delle simpatie ideologiche esistono i lavori forzati a vita. Male, signor Perseo, gli risposi, che in tutta Pechino vi sono 400 detenuti e pare che siano 2000 in tutta la Cina. Gli dissi che queste informazioni non mi venivano dall'Agenzia Nuova Cina, ma da uno dei giornali più reazionari del nostro paese, La Stampa di Torino, e l'articolo glielo sventolai sotto il naso. Gli riconobbi che anche in Cina esistono reati che sono severamente puniti e, caso strano, sono proprio quelli che in Italia si pagano con un paio d'anni, magari in cliniche private nel carcere dorato di Beirut. È giusto reprimere i reati sociali compiuti a danno della collettività. Grosso modo fu questo il discorso iniziale, poi attaccai con la mia storia. Mise in risalto la barriera di Milano, la mia giovinezza, la mia educazione rivoluzionaria, le mie lotte giovanili, le mie speranze, i miei sogni e anche le mie ingenuità. Raccontai come e perché avvenne la formazione della banda, dopo aver parlato delle delusioni. Raccontai brevemente qualche assalto, cercando di mettere in risalto l'ottusità della polizia che si scatena soltanto contro inermi operai, mentre prova un terrore folle di fronte a due mitra. E quando saranno in centinaia e migliaia a prendere le armi? Così pressappoco gli dissi. Ma la parte più importante fu nel finale, quando mi assunsi l'impegno politico nel carcere, dopo aver criticato il mio passato per la mia incapacità all'epoca dei fatti di trovare strade più giuste di lotta. Ecco la dichiarazione che lessi. Voglio chiarire il mio atteggiamento, non solo quello precedente al mio arresto, ma anche quello attuale nel carcere e in quest'aula. Anzitutto dichiaro sinceramente che non mi toccano né il carcere né la condanna che mi darete, né la descrizione di me che è stata fatta in questo luogo e altrove. Entrambe riflettono il modo di giudicare e di pensare proprio della mentalità della classe dominante. Questa vede in me un suo nemico e non può darmi né giustizia né comprensione, che io non chiedo. Essa colpisce me attribuendomi quella criminalità, quella violenza, quell'avidità che sono le sue stesse caratteristiche. Mi si indica come esempio del male, mentre i fatti che voi oggi giudicate, l'uomo che io ero, altro non sono che il prodotto di questa società borghese, corrotta e malvagia, questa società che pone i poveri di fronte a un'unica alternativa, e qualche volta nemmeno a quella. Lo sfruttamento o il carcere. Se io sono un criminale e lo nego apertamente, sono esattamente quale voi mi avete fatto. La criminalità è roba vostra. Essa è prodotta e riprodotta continuamente, inevitabilmente, deliberatamente dalla società classista nell'interesse della classe dominante. La criminalità consiste nell'egoistica ricerca del profitto e del successo. Ad ogni costo, nella sopraffazione dei deboli, nello sfruttamento legalizzato di tutto ciò che è roba vostra. Consiste, per chi entra in prigione, nell'accettare il carcere, diventando dei delatori, degli opportunisti, dei ruffiani, per ottenere privilegi, concessioni, libertà anticipate, calpestando i compagni di pena, ingannando l'opinione pubblica con falsi pentimenti, tradendo tutto e tutti, e prima ancora se stessi. Io rifiuto tutto questo e vi avverto che, nonostante tutta la buona volontà delle istituzioni carcerarie, ogni tipo di trattamento rieducativo non riuscirà a fare di me quello che si propone di fare di ogni detenuto, distruggerne ogni qualità, ogni coscienza, ogni dignità, sino alla totale regressione psicologica, come quella del criminale borghese. Sarò sempre, e stavolta nel modo migliore, più giusto e più difficile, un comunista, un rivoluzionario, e per la logica repressiva inevitabilmente dovrò pagare sino in fondo questa mia decisione, non per i morti che non ho ucciso, né per gli altri reati in se stessi, ma perché io sono vostro nemico, vostro prigioniero, perché voi rappresentate il sistema capitalistico, nemico mortale del genere umano, e perché al nemico vincitore non si chiede pietà, ma si continua a combatterlo anche dal fondo delle sue galere. Non sono qui per chiedere attenuanti, sono venuto davanti a voi, ma non per il motivo che spinge il detenuto comune a presenziare ai processi. Difendersi, cioè sul piano giuridico, per attenuare la condanna. Sono venuto per criticare il mio passato, dove esso è da criticare, in modo rivoluzionario, da un punto di vista rivoluzionario. Mi rivolgo a tutti gli uomini sfruttati, come lo ero, come lo sono io. Solo rispetto ai valori che essi rappresentano, il mio passato può essere autocriticato e condannato. Se ho rapinato banche, se sono morti degli uomini non per mano o volontà mia, Non è certamente davanti a una società che si fonda sulla rapina, sulla frode e sulla violenza che debbo giustificarmi. Ho davanti a me una polizia di parte e una legge fascista. Ho sbagliato, è innegabile. Come è innegabile il rammarico che provo per i morti, vittime ignare di una lotta continua e inarrestabile, che non certamente noi, piccoli uomini sfruttati, abbiamo voluto. È al proletariato, alle masse degli sfruttati, alla mia classe che spetta il giudizio, ed è a loro che chiedo di capire che la nostra voleva essere una risposta, ed era invece solo una reazione, a una condizione intollerabile per la dignità umana e che il responsabile di tutto questo è il sistema borghese, provocatore del crimine, causa di ogni violenza e ingiustizia. Io mi ero ribellato a questo stato di cose dall'età di 14 anni. A un certo momento della mia vita ho dato a questa ribellione uno sbocco assolutamente sbagliato, quando ho accettato di fare il bandito. Ho confuso la lotta rivoluzionaria con la ribellione individuale, facendo in questo modo il gioco della classe dominante, a cui appartiene la logica della sopraffazione e della violenza che tende a 1. Ostacolare la formazione della coscienza di classe degli sfruttati, 2. Ridurre le forze del movimento rivoluzionario, 3. Mettere gli sfruttati gli uni di fronte agli altri, gli uni sfruttati perché lavorano a certe condizioni, gli altri sfruttati perché costretti a rivoltarsi in modo individualistico, gli uni contro gli altri perché diventando banditi ci si allontana dalla propria classe, ci si mette fuori dalla lotta politica di massa. Nel venire a contatto con il mondo carcerario, con la sua quantità di errori e di violenze, e nel rivedere criticamente gli errori compiuti e nel conoscere da vicino la lotta erotica dei detenuti politici, insieme a tanti altri ho potuto crescere, maturare, arricchire la mia coscienza rivoluzionaria. Ciò mi rende sereno, anche se con il rimpianto di non avere fatto tutto ciò che avrei dovuto fare, di aver sciupato occasioni importanti della mia vita. Altri verranno, migliori di me, fatti esperti dai nostri errori, a raccogliere l'aspetto positivo della nostra esperienza. La lotta contro di voi continua, fuori e dentro il carcere. Voi continuerete a imprigionare tutti coloro che vi danno fastidio e costituiscono un pericolo per il vostro disordine costituito. Voi metterete in carcere i pacifisti, noi aiuteremo a superare le asprezze e le privazioni di questa vita e di questo ambiente. I detenuti comuni, gli sbandati, i ribelli senza speranza, noi ve li ritorneremo con una coscienza rivoluzionaria. È stato e sarà compito nostro, come avanguardia interna al carcere, trasformare le prigioni in scuola di comunismo e sostituire all'opportunismo un sempre maggior spirito di fratellanza e di solidarietà. Questo è il mio impegno e questo è il vostro errore. Voi credete di aver vinto e invece anche con me avete già perso la battaglia. Il mio fu un intervento fiume, ma in quelle tre ore cercai soprattutto di essere chiaro, anche se l'emozione mi giocava brutti scherzi. In certi momenti notavo che erano in molti a subire il mio carattere passionale. Qualche volta fui tenero, non dovevano dimenticare la mia umanità, ma molto spesso il tono fu duro e sprezzante. Badavo a colpire nei punti giusti, carcere e polizia. Davvero non li risparmiai. Mi emozionai raccontando cosa era per me la barriera di Milano, quando ricordai cosa era allora la FIGC e soprattutto la Resistenza. Una volta dovetti fermarmi, avevo un affare in gola, ma non volevo dargli quella soddisfazione. Mi dicevo, Sante, non fare la figura dello stupido. Sante, sei ormai un uomo. Mi emozionai nel ricordare Crepaldi, giovane, e cosa soprattutto rappresentasse per me, ragazzo, quel giovanissimo ex partigiano. Quando terminai, uscendo dall'aula, molti compagni mi salutarono a pugno chiuso. Per la prima volta, sia pure timidamente, risposi. Prima non l'avevo fatto, anche se ero stato invitato a farlo. Volevo essere sicuro del mio intervento. Dovevo spiegare, non volevo che il mio gesto potesse comprometterli. Insomma, volevo essere certo che i compagni avessero capito. In quei giorni, nei ritagli del processo, c'era un via vai nella mia cella, tutto da organizzare, da decidere, da discutere, soprattutto. E anche se avevo mal di testa, non me ne accorgevo neppure. Anche il processo passava in secondo piano, e se ne discutevamo era solo per fare un po' di colore, per ridere insieme di altre puttanate sentite o addirittura dette. Avevo imparato tante cose, qualche volta non mi sembrava neppure più di stare in prigione. E chi mi stava intorno non erano ladri, drogati, rapinatori, erano compagni. Mi sembrava di essere tornato indietro alla barriera di Milano. Intorno a me c'era quella solidarietà e quella istintiva simpatia che può esserci solo fra gente che ha le stesse idee, gli stessi problemi, più o meno. Insomma, cominciavamo a comportarci da uomini liberi e questo lo avvertivamo in parecchi, e la galera non sembrava più brutta e odiosa. E anche con le guardie i discorsi erano diversi, anche loro capivano. Non dico che ci appoggiassero, ma istintivamente si interessavano e spesso succedeva di prendere le difese di qualcuno di loro. Ci sembrava giusto farlo, e così anche loro capivano che avevano a che fare con gente diversa. La sentenza è incredibile quanto poco riuscì a toccarmi. Sì, lo so bene che era prevista, ma è sempre un colpo. Invece nulla, me ne sbattevo magnificamente. Avevo ora una ricchezza tale in me che anche se avessi dovuto andare a morte non mi sarebbe importato nulla. Ci sarei andato sorridendo e col pugno alto. Gran parte di tutto questo era merito dei compagni, fuori e dentro, di ciò che mi avevano insegnato. Pensavo a quei comunisti che sono stati decenni in carcere, solo perché erano comunisti, e capivo qual era la grande forza che li sorreggeva. Capivo perché si andava a morire con tanta dignità, capivo tutto e capivo anche che avrei saputo imitarli, che è possibile essere così. Se ci erano stati errori nella mia vita, e ce n'erano stati tanti, troppi, sentivo adesso che non avevano più alcuna importanza, era tutto vecchiume che mi lasciavo dietro, non mi interessavano solo le esperienze acquisite, il bagaglio tecnico, la forza di guardare in faccia la paura, il coraggio di guardare e condannare gli errori. Queste erano le cose che mi interessavano. Fui messo in isolamento la sera stessa della sentenza, il 21 dicembre 1971. Fui trasferito temporaneamente al carcere giudiziario di Pavia. A San Vittore erano in programma tutta una serie di agitazioni per le feste natalizie e i milanesi volevamo sbattere in faccia la nostra realtà. Naturalmente qualcuno pensò di avvertire la direzione, che subito fece pressione sulla Procura Generale perché ci trovasse delle celle altrove. Essa era anche stata avvertita della nostra iniziativa contro il gruppo di squallidi fascisti rinchiusi a San Vittore. A Pavia rimasi pochi giorni. Mi era stato notificato l'ordine di trasferimento in uno dei più brutali penali del paese, noto in Sicilia, secondo solo al famigerato carcere di Volterra. La parte più buffa del viaggio fu la scorta. Spropositata, pantere di scorta, controlli a ogni stazione, divieto ai civili di avvicinarsi allo scompartimento. Dimostravano di avere una paura maledetta, sghignazzavo e li sfottei per tutto il viaggio. Gli ricordai che quando sarebbe giunto il momento tutto quello che poteva servire non potevano mica scortare tutto il popolo. Comunque l'apparato funzionò perfettamente fin dopo Firenze, poi il caos e più si andava a sud più si notava il menefreghismo. Il sud. Erano anni che non ci venivo, anzi si può dire che non ci ero più tornato. Solo una volta mi ero spinto più in là di Roma. Fu quando mi sposai e non mi resi conto pienamente di tutta la miseria e la povertà di queste regioni. Due erano le cose che più mi facevano male. Il mare e i bambini. tutta la costa calabra, decine e decine di chilometri senza una barca, un peschereccio. Sembrava un mare inutile. In Liguria, per esempio, ti rendi subito conto che il mare è utilizzato. Basta guardare le spiagge, sempre operose, e le navi al largo. Lì niente, tutto ciò, anche le attrezzature turistiche, pochissime e povere. Un mare così, dà un senso di tristezza. Poi i bambini, molti malnutriti, tutti malvestiti. Mi rivedevo, tornavo indietro nel tempo e ricordavo quando avevo sempre fame e sempre freddo. Quanta rabbia sentivo, specialmente quando guardavo i carabinieri. Molti erano di quei posti. Mi dicevo, possibile che non guardino? E cosa vedono? Cosa sentono? Possibile che non capiscano? Guardavo le loro facce, pensavo di parlargli, chiedere, ma decidevo di no. Non potevano capire. O forse sbagliavo io a non farlo, ma in quel momento decisi che non c'era nulla da fare, preferivo stare zitto, in silenzio, con la mia pena e con i miei pensieri. Avola è a pochi chilometri da Noto. Bene, la povertà di Avola è come ricevere uno schiaffo, tutte le autocritiche del mondo non servono a far scemare la voglia di prendere in mano il mitra. Sapevo di certi paesi in cui tutti emigrati, capivo benissimo. Ciò che mi faceva male di più era quell'aria di rassegnazione, quegli uomini sulle piazze che aspettano da quando sono nati, aspettano. Ma cosa per Dio? E chi non aspetta se ne va, via, nei carabinieri, in Germania o a Milano, e poi magari ritorna, come tornavo io, con la stessa valigia di cartone e in più un paio di manette ai polsi. Anch'io avevo fatto fortuna al nord. Gente, non vedete? Non sentite le sirene della polizia? Largo, ero tornato. Avevano annunciato per radio il mio arrivo. Non sentivano? Tornavo dal nord. Spostatevi in fretta, gente. C'è una cella che mi aspetta, merda. E no, sante, mi dicevo. Non ti lamentare. Non sei stato al gioco. Cosa volevi? Dovevi tener giù la schiena, come fanno gli altri. Invece... No, cari, no, avrò sbagliato, ma per Dio, quella fine no. L'accoglienza della custodia fu delle più gelide, perquisizione accuratissima e sequestro immotivato di corrispondenza già censurata. Altrove requisizione di vecchie copie del manifesto, Rennudo, lotta continua. A nulla valsero le mie proteste. Parlerà col direttore dopo le feste, mi dissero con tono asciutto. Era l'ultimo giorno dell'anno e il morale ne risentiva un poco. Era tutto così diverso dall'ambiente che avevo lasciato al nord. Qui la realtà del penale ti aggrediva. Non esisteva svago alcuno, niente televisione, niente cinema, scarso sopravvitto e in quantità celle e celle. Si rientrava alle 15:30 e fino al giorno dopo restavi solo con te stesso. Anche i detenuti erano diversi. Si vedeva la povertà, la chiusa rassegnazione. L'edificio era tra i più arcigni, vecchissimo e cadente, basso e opprimente. Anche le case intorno, tutte poverissime, di tufo. Per fortuna ritrovai un detenuto, vecchia conoscenza di Volterra. Era il 31 dicembre e l'apparecchio radio, subito dopo il notiziario delle 19:30, tacque. Nessuno fiatò, sentii solo l'amico romano borbottare. Manco l'ultimo dell'anno ci fanno sentire la radio. Mi venne una rabbia sorda, non amo le radio e i rumori. Ma mi ribellai, soprattutto non sopportavo la passività con cui i detenuti accoglievano quella decisione. Chiamai il capoposto e protestai, spalleggiato dal romano. Dopo un battibecco l'apparecchio radio fu riacceso. Due giorni dopo fui convocato dal direttore, dottor Consiglio, che iniziò il solito discorso paternalistico. Addirittura arrivò a dirmi: «Sa, capisco che è in prigione, io sono stato per un mese prigioniero di guerra». Capiva la psicologia dei detenuti, tanto è vero che a Noto i pestaggi nelle celle di rigore sono frequenti. Noto è il penale in cui, dopo due dure rivolte, per i detenuti non è cambiato nulla. Tagliai corto, dicendogli che non intendevo restare molto in quel carcere e che avrei denunciato come abuso il sequestro della corrispondenza e dei giornali. Approfittai di quei giorni di isolamento e di inattività forzata per intervenire nel dibattito sul carcere che si era aperto sul manifesto. In seguito alle polemiche che una serie di articoli di Marina avevano suscitato, era importante da dentro fare il punto della situazione e chiarire l'impostazione del nostro lavoro. Scrissi loro una lettera che venne pubblicata. Penale di Noto, 5/2/1972. Cari compagni, da 2 anni è cominciato nelle carceri un movimento che ha dato una fisionomia politica di classe alle lotte che ci sono sempre state. Non si protesta più per la pasta asciutta, come capitava qualche tempo fa. Oggi le richieste che avanziamo nel corso della lotta, alcune già accolte, sono riforma dei codici e regolamenti penitenziari, diritto a ricevere stampa di sinistra, diritto di assemblea, istituzione di commissioni rappresentative dei vari reparti per discutere con la direzione, lotta alle lavorazioni, con scioperi e proteste di vario tipo per ottenere retribuzioni più dignitose, battaglia antifascista, eccetera. Contemporaneamente svolgiamo un lavoro di autoformazione. La discussione si articola in questi interrogativi: chi siamo? Cosa rappresentiamo? Qual è la causa del nostro stato? Quali gli errori nostri e quelli degli altri? A chi conviene che noi si resti delinquenti? Quali i nostri rapporti con la classe operaia? Quale danno arrechiamo a essa? Trovare le risposte a questi interrogativi. Tracciamo un piano di lavoro e di studio per portare avanti le nostre rivendicazioni e le nostre lotte. Questo movimento, che cresce giorno per giorno e si estende, non avrebbe futuro senza l'appoggio esterno di compagni che tengono i vari collegamenti, inviano giornali, libri, ci informano continuamente della realtà politica che qui giunge attutita e riportano fuori le notizie del nostro lavoro. Non abbiamo senso se non riusciamo a saldarci al movimento di classe. Purtroppo dobbiamo lottare non solo contro l'apparato repressivo, contro il sistema capitalista che tende a separarci dal resto della classe, contro i sindacati, i quali per esempio si oppongono a una normalizzazione economica del lavoro all'interno del carcere, contro la sinistra ufficiale che deforma le nostre lotte, ma anche contro diversi compagni che cadono nella rete dell'avversario e ci rifiutano, non comprendendo che anche noi siamo proletari. Facciamo parte dell'esercito di riserva che in Italia è immenso, perché serve da serbatoio per tutta l'Europa e abbiamo tutte le carte in regola per partecipare alle lotte. Gli attivi nel movimento sono in stragrande maggioranza colpevoli di reati contro il patrimonio e fra noi li chiamiamo i requisitori. Non ci sono invece sfruttatori e certa malavita organizzata e sarebbero comunque esclusi non per moralismo, ahi, questo moralismo, ma perché obiettivamente non offrono garanzie per un recupero come abbiamo verificato nella pratica. Moltissimi di noi hanno un passato operaio, alcuni un passato politico e apparteniamo tutti a famiglie proletarie, di operai, di contadini. Non è così semplice, cari compagni di Treviso e di Milano, tracciare certe linee di demarcazione. Se siete in buona fede, basterebbero pochi giorni di galera a farvi capire tante cose. Comunque la nostra lotta continua e nonostante tutto aumentano i compagni che da fuori ci danno aiuto e fiducia. E poi il movimento nelle carceri cresce in tutto il mondo. Abbiamo letto per esempio quello che succede in Francia, sappiamo degli Stati Uniti e delle Pantere Nere. Avanti dunque, viva la lotta proletaria dovunque si sviluppi. Viva Marx, viva Lenin, viva Mao Zedong. Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che io so ha ridotto già Libri Libri ribelli.